24, la storia. E ora uno spot che vi piacerà di certo. Siamo la Central Intelligence Agency e stiamo cercando gente speciale per una carriera speciale. Vuoi essere uno di noi? Se sì, chiama subito questo numero per un colloquio confidenziale. Bentornati su Mix 24 con la seconda puntata dedicata alla storia della CIA. È l'anno 1976. L'agenzia degli Stati Uniti cerca di rifarsi un'immagine. Le testimonianze rese al Congresso dai suoi ex direttori, assieme alla rivelazione che riguardano il Watergate e il golpe in Cile, hanno minato la reputazione della CIA, ridicolizzando l'ossessione della CIA per la segretezza. Per reclutare nuovi agenti, la CIA, lo avete sentito, lancia addirittura una campagna pubblicitaria via radio. 21 gennaio 1977. Jimmy Carter arriva alla Casa Bianca con una convinzione: far dimenticare gli anni bui della CIA e porre fine alle operazioni segrete. Ascoltiamolo. Dovrete cercare di essere ancora più puri, più puliti degli altri. Dovrete sforzarvi di essere più onesti di qualsiasi altro dipendente del governo. 9 marzo 77. A capo della CIA, Carter nomina l'ammiraglio Stanfield Turner, suo compagno di studi all'Accademia Navale. Ma dentro la CIA sono in molti a detestare Turner. Proprio lui, infatti, ha testimoniato al Congresso sulle attività illecite dell'agenzia negli anni 60. Ascoltiamo lo stesso Turner e poi alcuni agenti della CIA. In fondo ero un outsider, non provenivo dalle file della CIA e questo suscitò un certo scetticismo sulla mia persona. Vorrei ancora una volta esprimere il mio apprezzamento e la mia fiducia verso l'ammiraglio Turner. Ciò che egli svolgerà negli anni del suo mandato sarà di grande aiuto per tutto il paese. Turner divenne direttore in un momento in cui la CIA era nell'occhio del ciclone. C'erano varie inchieste in corso, ad esempio sul Congo, ma anche su altre vicende. Quando lo stesso Turner dovette andare davanti al Congresso a testimoniare, molti nella CIA si sarebbero aspettati maggiore reticenza e riservatezza. Turner, invece, andò ed ammise che la CIA aveva commesso molti errori. Stanfield Turner sarà ricordato soprattutto come colui che è arrivato vicinissimo a lanciare un attacco nucleare all'Unione Sovietica. Un'errata valutazione degli esperti americani infatti lo convince che un missile russo stia per colpire gli Stati Uniti. Fu un errore clamoroso. Il problema fu che alcune fonti ci segnalarono come imminente un attacco contro l'America. Si può inserire artificialmente nel radar un segnale che indichi missili in arrivo, in modo che gli operatori che ogni giorno stanno davanti a quegli schermi 24 ore su 24 sappiano subito che cosa fare. Ma se qualcuno per errore preme il bottone sbagliato al momento sbagliato, beh, poi dopo qualcuno si rende conto che era un falso allarme. Ehi, ma perché non c'è niente? E qualcuno alla fine capisce: oh, abbiamo spinto il pulsante sbagliato. Era la voce di Stanfield Turner, direttore della CIA dal 78 all'80. Tra le prime decisioni di Jimmy Carter alla Casa Bianca c'è il perdono presidenziale agli obiettori di coscienza in Vietnam. Ma per Carter la priorità è il Medio Oriente. Dopo 13 giorni di colloqui con Begin e Sadat a Camp David, grazie alla personale mediazione di Carter, Israele ed Egitto firmano un accordo di pace, ma i veri guai per Carter arrivano dall'Iran. A metà del 78 la CIA fornisce un dossier sull'Iran completamente sbagliato. Secondo il servizio segreto, l'Iran non sarebbe affatto sull'orlo di una rivoluzione, né sarebbero vere le voci sui preparativi di un colpo di Stato. William Quant, all'epoca, è responsabile per le politiche nel Vicino Oriente nel Consiglio di Sicurezza Nazionale. La rivoluzione iraniana fu un punto di svolta. Credo di poter dire con certezza che prima del 79, né noi né moltissimi altri paesi ci eravamo minimamente resi conto di cosa significasse l'integralismo islamico. La rivoluzione iraniana ci colse assolutamente impreparati. Né il Dipartimento di Stato né la CIA avevano capito che stava per scoppiare una rivoluzione. Sono mesi in realtà che l'Ayatollah Khomeini, dal suo esilio a Neuf-le-Château in Francia, sta preparando la rivoluzione. Khomeini comincia a parlare del suo piano per ribaltare il regime dello Shah. che la stessa CIA 25 anni prima ha riportato al potere a Teheran. Ascoltiamo l'allora direttore della CIA Stanley Turner e poi ancora William Quant del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sia io che tutta la CIA eravamo certi che, sebbene avesse dei problemi, lo Shah disponeva comunque di risorse militari e di polizia sufficienti a fronteggiare le rivolte del paese. Non avevamo dubbi sul fatto che, pur di rimanere al potere, sarebbe ricorso anche alla violenza, fino ad uccidere i rivoltosi. Anche gli iraniani, sbagliando, condividevano la nostra analisi. Pensavano che le forze rivoluzionarie fossero retrive, reazionarie, facili ad ogni tipo di manipolazione e di corruzione. Non ci vedevano nulla di particolarmente preoccupante. Dobbiamo concentrarci sulla neutralizzazione dei comunisti. Il resto non ci interessa. Era la voce di Reza Pahlavi. La CIA, come anche la Casa Bianca, compiono un tragico errore di valutazione della realtà iraniana. L'Iran, grazie alla illuminata leadership dello Shah, è un'isola di stabilità in una delle aree più travagliate del mondo. Nell'ambasciata americana di Teheran nessuno, nemmeno tra le spie, parlava il persiano. Eravamo tutti occupati con le nostre cene di rappresentanza, con i ricevimenti. Ascoltavamo sempre solo chi cercava di tranquillizzarci. La CIA aveva pochissimi contatti con il movimento islamico in Iran. Se non vado errato, l'ambasciatore aveva addirittura proibito ogni contatto tra la CIA e gli elementi dell'opposizione. È ovvio, una disposizione del genere è un grave errore, significa tagliare ogni possibilità di acquisire informazioni preziose. In questo modo, se in effetti capita che l'opposizione prenda il potere, nessuno avrà costruito una rete di rapporti. L'ambasciatore americano a Teheran è Richard Helms, il direttore della CIA licenziato da Nixon per essersi rifiutato di mentire sul Watergate. Helms è un amico fraterno dello Shah dal 1953, anno in cui l'America ha appoggiato la sua ascesa al potere e il rovesciamento di Mossadegh. Helms si occupa di addestrare e supervisionare la polizia segreta dello Shah. Sia il direttore della CIA Turner che la signora Carter inviavano continuamente dei messaggi alla moglie dello Shah per cercare di tranquillizzarla. Jimmy Carter ogni giorno ascoltava una campana diversa. Il risultato è stato una politica disastrosa. Alla fine non è mai stata presa una decisione vera e propria. Voglio dire, non c'è mai stato un momento in cui Jimmy Carter abbia detto chiaramente: d'accordo, mi libererò dello Shah e cercherò un'alleanza con gli islamici. Il problema è che Carter non sapeva nulla né dello Shah né di Khomeini e non sapeva che pesci prendere. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24, Cuore Denari Expo, ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Attraverso le voci dei protagonisti, insieme a Marina Milone, stiamo raccontando la storia della CIA. In Iran è scoppiata la rivoluzione studentesca e la stessa agenzia segreta si trova impreparata e non riesce a capire quello che sta succedendo nel paese dello Shah. Il caso Iran, insomma, per la CIA rappresenta un fallimento. Carter è deciso a fare chiarezza su quale strategia abbia l'agenzia nel raccogliere informazioni. Il direttore nominato da Carter, Stanfield Turner, licenzia 700 persone tra capi e funzionari e comincia a smantellare l'organizzazione. Ascoltiamo l'analisi di quel momento dalle stesse voci degli agenti della CIA. In pochi giorni Turner distrusse tutta la struttura che era stata messa in piedi dagli anni 50. Il governo non aveva nessun interesse per la CIA e del resto non credo neppure che Turner sia stato un grande direttore. Infatti non capirono niente di quanto stava accadendo nel mondo. Posso aver preso una decisione errata, è possibile che mi sia sbagliato. È questo il problema. Uomini come Stanfield Turner o Richard Helms, che sono stati a capo della CIA, non riuscivano mai a vedere più in là del proprio naso. Turner eseguì ciò che gli era stato richiesto. Costituire nuove risorse più tecniche a discapito di quelle umane. Non è stato altro che un esecutore. La colpa non è sua. È del presidente Carter. Quando i russi invasero l'Afghanistan, Carter andò da Turner e gli disse: voglio che la CIA faccia qualcosa. E Turner rispose: e cosa? Non abbiamo più risorse sufficienti per fare nulla, spiacente. Nonostante i movimenti dell'Armata Rossa sul confine in Afghanistan e gli allarmi lanciati dalla CIA, l'America persegue la linea della distensione facendo numerose concessioni. A Mosca, Carter incontra Leonid Brezhnev. Ce ne parla Robert Gates, allora direttore della CIA. Ci concentrammo sui preparativi dei russi per invadere l'Afghanistan. Sapevamo che le truppe sovietiche si muovevano verso il confine, ma non pensavamo che avrebbero invaso. Ma l'amministrazione Carter sapeva che l'Unione Sovietica aveva la capacità di invadere e che le truppe erano pronte a farlo. Non credevamo possibile che i sovietici utilizzassero una forza militare così ingente come quella necessaria nella Afghanistan. Noi sapevamo esattamente che prima o poi i russi avrebbero invaso l'Afghanistan. Su questo non avevamo nessun dubbio. Non fu una sorpresa per noi. Il punto è che non sapevamo che l'avrebbero fatto così presto. L'invasione dell'Afghanistan nel 1979 distrugge qualunque illusione residua di Carter su Brezhnev. È da questo momento che la Casa Bianca chiede a Turner alla CIA di armare i ribelli afghani per combattere l'occupazione sovietica. Ce ne parla Frank Carlucci, allora vice direttore della CIA. Carter non aveva alcuna esperienza dei comunisti e non tenne in nessun conto i nostri suggerimenti. Noi gli avevamo annunciato l'invasione, ma lui fino all'ultimo non volle crederci. Per lui fu un'enorme sorpresa. Il mondo non può accettare che questa aggressione da parte dell'Unione Sovietica resti impunita. Avete ascoltato il discorso di Carter del 4 febbraio del 1980. Ascoltiamo ancora Stanley Turner e poi l'agente Charles Cogan. L'invasione dell'Afghanistan modificò completamente l'atteggiamento di Carter riguardo all'Unione Sovietica. Alternativa. Dovevamo lasciare che i sovietici invadessero tranquillamente un paese? Carter ebbe un repentino cambio di direzione e decise di aiutare i mujahideen afghani fornendo loro armi letali. I russi invasero l'Afghanistan tra il 26 e il 27 dicembre. Già alla fine di gennaio, in tempo brevissimo, gli americani avevano inviato le prime armi. Attraverso la CIA, la Casa Bianca cominciò a sostenere la resistenza afghana. Come potevamo immaginare, nel 1979, che quelle persone che stavamo armando per sconfiggere i russi avrebbero poi dato vita a una cosa orribile come il regime dei talebani. Era la voce del giornalista Joseph Trento. Febbraio 1979. L'Ayatollah Khomeini è di nuovo in Iran. Gli americani scaricano lo Shah che sta morendo di cancro in un ospedale di New York. Richard Helms va a trovarlo pochi giorni prima che muoia. Andai a trovare lo Shah all'ospedale a New York. Era ricoverato per un tumore. La prima domanda che mi fece fu: perché lo avete fatto? Lo Shah non aveva alcuna chance. E un governo come quello degli Stati Uniti ha il dovere di capire quando una situazione non ha futuro. Non deve continuare a insistere su una posizione. Non è politica del nostro governo interferire negli affari interni di un altro paese, favorendo l'ascesa al potere di un leader politico piuttosto che un altro. Questo è contrario alla nostra filosofia. E anche se altre volte lo abbiamo fatto, come in Vietnam, possiamo dire di aver appreso la lezione del passato. Nessuno in questo paese vuole avere responsabilità nei confronti di un altro paese, incluso l'Iran. 4 novembre 1979. Il personale dell'ambasciata americana a Teheran viene sequestrato da circa 3.000 studenti islamici. Il 24 aprile un'operazione militare per liberare gli ostaggi si trasforma in un disastro. In America è l'anno delle elezioni. Le speranze di Carter per un secondo mandato sembrano così svanire. Il suo avversario per la Casa Bianca è Ronald Reagan. La sua campagna elettorale viene gestita da William Casey. Io ritengo che la responsabilità della situazione che si è venuta a creare sia della politica estera di questa amministrazione, che ha reso possibile il rapimento degli ostaggi, ed il fatto che siano trattenuti è un'umiliazione per il paese. Per Carter la crisi degli ostaggi fu il colpo di grazia. Carter convoca tutti i consiglieri. L'amministrazione decide di aprire negoziati segreti con il governo iraniano. Per Carter è indispensabile liberare gli ostaggi prima delle elezioni. Dall'interno della Casa Bianca, però, qualcuno riferisce allo staff di Reagan le intenzioni di Carter. Così commentano William Quant del Consiglio della Sicurezza Nazionale e poi il giornalista Joseph Trento. Si sapeva che Carter era vicino ad un accordo con gli iraniani per far sì che gli ostaggi venissero liberati prima delle elezioni. I repubblicani vennero a conoscenza del piano e temettero che in caso di successo Carter sarebbe stato rieletto. Per questo motivo si diedero da fare per far fallire il negoziato e improvvisamente, a 2 settimane dal voto, gli iraniani interruppero ogni trattativa. Come è potuto succedere? Semplicemente perché ci fu una fuga di notizie. Qualcuno dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza passò delle informazioni allo staff di Reagan. Si trattò di un'operazione segreta per screditare Carter e fare eleggere Reagan. Il vice direttore della CIA, Frank Carlucci, si dimette ed entra nella squadra di Reagan, seguito da Robert Gates, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. 20 gennaio 1981, il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca, Teheran libera tutti gli ostaggi americani. Ascoltiamo ancora Robert Gates e poi Frank Carlucci. I repubblicani non c'entravano niente con la vicenda. Gli iraniani decisero tutto. Volevano umiliare Carter e scelsero di liberare gli ostaggi il giorno in cui lasciò la Casa Bianca. Non credo proprio che ci fosse un accordo tra i repubblicani e Khomeini. Lo escludo nella maniera più assoluta. È una delle teorie dietrologiche, non c'è nulla di vero. 10 anni dopo, in un'intervista, Jimmy Carter darà la sua versione dei fatti. Il presidente Bani Sadr, una figura molto importante in Iran, all'epoca collaboratore dell'Ayatollah Khomeini, ha più volte rilasciato dichiarazioni pubbliche sull'esistenza di un accordo. La figura centrale di tutta la faccenda fu William Casey, all'epoca in viaggio in Europa. Il suo ruolo nella vicenda è sempre stato oscuro. Si occupava della campagna di Reagan, che poi lo nominò direttore della CIA. Ronald Reagan decide di affidare a William Casey un ruolo importante già molto prima di conquistare la Casa Bianca. Ascoltiamolo. Voi siete gli occhi e le orecchie del mondo libero. Siete il muro contro il quale si infrangerà la volontà di dominio dei regimi totalitari. Casey orchestra abilmente il piano che porterà Reagan al trionfo, mettendo fuori gioco Jimmy Carter. Per arrivare alla vittoria, Casey gestisce la campagna con abilità, senza risparmiare sforzi né fondi. È un uomo d'affari miliardario, nonché il direttore della Security Exchange Commission, l'organo che controlla le operazioni della borsa di New York. E riprendiamo la storia subito dopo la viabilità. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Ronald Reagan non ha grossa dimestichezza con la politica estera. William Casey, l'uomo che ha gestito la sua campagna elettorale, viene nominato direttore della CIA. Sugli affari esteri ha praticamente mano libera. Casey infatti rafforza il ruolo dell'agenzia ripristinando la maggior parte delle figure eliminate dal suo predecessore Turner. Ed è durante il suo mandato che la CIA aumenta il numero di operazioni segrete. Bill Casey probabilmente fu il direttore più potente che la CIA abbia avuto dai tempi di Allen Dulles. Casey aveva un rapporto piuttosto buono col presidente. Reagan si fidava di lui e questo lo portò ad avere molto potere. I giudizi su Casey sono variegati. Così commentano la sua personalità il giornalista Joseph Trento e poi ancora l'ex segretario di Stato Alexander Haig. Casey puntava a divenire segretario di Stato, ma non ci riuscì, non glielo permisero. Non poteva ricoprire due cariche così importanti. Allora la scelta cadde su Alexander Haig. William Casey aveva una fiducia cieca nelle operazioni segrete. Covert action. Ma non aveva la mia esperienza e per questo nutrivo forti dubbi nei suoi confronti. Ero sempre un po' guardingo. Casey non sopportava tutta la burocrazia all'interno della CIA. Spesso prendeva iniziative senza consultarsi con nessuno. Casey dirigeva la CIA alla stregua di una cosca mafiosa. Il primo obiettivo di Casey è ristabilire l'ordine in Nicaragua. Nel piccolo paese dell'America centrale, dopo la caduta di Somoza, voluta dallo stesso Carter, hanno preso il potere i sandinisti di orientamento marxista-leninista. Somoza era un burattino al soldo della CIA. È stato nel libro paga dell'agenzia per anni, proprio come centinaia di altri dittatori in America Latina o in Africa. Lo abbiamo sfruttato finché ne avevamo bisogno. Così si faceva. Si sceglieva un qualsiasi signorotto locale, gli si davano soldi ed armi e lui faceva quello che volevamo. È solo una questione di affari. Poi una sera, mi sembra fossero più o meno le 19, andai a parlare con Casey. Mi capitava spesso in quel periodo. Ci sedemmo e osservammo le luci sul fiume Potomac. Gli dissi: Bill, credo di avere la soluzione. Credo di sapere cosa dovrebbero fare il governo e la CIA. I sandinisti erano già infiltrati dalla CIA. Casey però allargò ulteriormente l'operazione. In Cile, contro Allende, c'era stato un golpe. In Nicaragua, invece, non era successo nulla del genere. Per prima cosa, allora, inviammo 500 uomini al confine tra Honduras e Nicaragua, creando un movimento di guerriglia all'interno del Nicaragua per intercettare l'invio di armi verso El Salvador o altri paesi. In secondo luogo, creammo le premesse per una rivoluzione. La CIA ha sempre avuto un rapporto travagliato con l'America Latina. Durante l'amministrazione Reagan, sotto la guida di Casey, l'agenzia dà il via a una campagna estremamente aggressiva in quell'area. Lavorando con i Contras, la CIA dichiara guerra ai sandinisti in Nicaragua e attiva una serie di operazioni segrete in El Salvador e in Honduras. Per come la vedo io, le operazioni segrete sono semplicemente un'estensione della politica estera. Le azioni segrete esistono da sempre e saranno sempre necessarie. Bill Casey è stato il direttore più controverso che la CIA abbia avuto. Per molti può essere considerato il miglior direttore, per altri il peggiore. Negli anni di Casey, la CIA ebbe un rapporto difficile con il Congresso. Novembre 1986. Scoppia lo scandalo Iran Gate. Nonostante l'embargo, l'America ha venduto armi alla Repubblica Islamica Iraniana. Con i fondi neri ricavati, la CIA ha potuto finanziare la guerriglia antisandinista. Il Congresso però vieta di fornire qualunque tipo di sostegno ai Contras per destabilizzare il governo del Nicaragua. Tutte le operazioni segrete della CIA devono ricevere l'approvazione del Presidente degli Stati Uniti. Così commentano gli agenti Duane Claridge e Milton Burden. E il Presidente era al corrente di quello che succedeva? Certo che sì. Non c'era nessuno a Washington che non sapesse. Nei ricevimenti o ai cocktail non si parlava d'altro. Lo scandalo Iran-Contra stava uccidendo la CIA. Ascoltiamo adesso l'interrogatorio ad Oliver North nella commissione d'inchiesta Iran-Contras il 7 luglio 1987. Il ministro della giustizia, William French Smith, stipulò che lei potesse autorizzare la vendita di armi a paesi terzi, anche oltre i limiti di legge, laddove la CIA, per mezzo di un suo agente, avesse acquistato quelle armi dal Ministero della Difesa e le avesse poi trasferite all'Iran. Lei lo ricorda? Era illegale vendere armi all'Iran? Con l'obiettivo di un profitto economico da trasferire poi ai Contras? Colonnello North, quando ha parlato con Casey rispetto al fatto che usando... Sono pronto ad ammettere a lei e a tutti gli altri membri di aver dichiarato il falso al Congresso. Durante quella riunione? Esatto, proprio in quella riunione. Quindi ci sta dicendo che lei ha dichiarato il falso riguardo alle vostre attività di sostegno ai Contras? Sì, è così. Ma l'occasione migliore per applicare la sua strategia contro i comunisti viene... a casa dall'Afghanistan, dove da 3 anni si combatte una guerra senza esclusione di colpi. La CIA fa di tutto per creare problemi ai russi, ma ci vorranno 10 anni di conflitto perché l'Unione Sovietica si ritiri. Dal 1985 in poi, per quanto riguarda l'Afghanistan, Bill Casey cambiò strategia. La linea di Carter era di creare problemi ai russi, rendergli la vita impossibile. Bill Casey invece chiese carta bianca a Reagan e Reagan gli firmò una direttiva in cui sostanzialmente c'era scritto: andate lì per vincere, per cacciarli dall'Afghanistan. Io conoscevo Bill Casey dai tempi in cui lavoravo in Africa. Bill venne da me e mi disse: voglio che tu vada in Afghanistan e che torni vincitore. Alla fine la resistenza afghana riuscì ad aver ragione di ben 120.000 soldati russi. Nessuno se l'aspettava. Come c'erano riusciti? La resistenza afghana dunque ha la meglio. Così commentano Oleg Kalyugin, ex agente del KGB, e poi l'agente della CIA, Duane Claridge. I Mujahideen ricevettero una quantità enorme di aiuti militari, per questo riuscirono a vincere. I missili Stingers, ad esempio, furono determinanti nel rendere molto difficile qualunque azione aerea sovietica. Perdemmo molti elicotteri, i piloti avevano paura a volare a bassa quota, e tutte quelle armi venivano dalla CIA. Senza gli Stingers, gli elicotteri russi avrebbero avuto partita vinta. La CIA inizia a fornire armi e soldati ai Mujahideen durante l'amministrazione Carter, ma è sotto Reagan, con William Casey a capo dell'agenzia, che la CIA arma decine di gruppi di guerriglieri che tuttavia non controlla affatto. La resistenza islamica riceve le armi più sofisticate. Nelle sue mani finiscono centinaia di missili antiaerei in cambio della vaga promessa di utilizzarli solo contro i russi. Ancora oggi, quando ormai l'invasione sovietica è solo un ricordo lontano, quelle stesse armi sono in circolazione. 1 miliardo l'anno. Alla fine la campagna afghana ci è costata più di 3 miliardi di dollari. Volete sapere quanto è costata ai cittadini americani la guerra fredda? 13.000 miliardi di dollari. Non so neanche quanti zeri ci vogliano. Ma credo che 3 miliardi per chiudere con la guerra fredda siano stati un affare. Lo definirei un classico esempio di effetto collaterale indesiderato. La CIA intraprese una serie di azioni allo scopo di sconfiggere i russi. Ma non capì che quella gente non stava combattendo solo contro l'Unione Sovietica. Non scegliemmo bene i nostri alleati e non esercitammo su di loro alcun controllo. Una volta raggiunto lo scopo di cacciare i russi dall'Afghanistan, smettemmo di occuparcene. Considerammo la pratica chiusa. Molti ex agenti della CIA oggi dichiarano che l'intervento in Afghanistan sia uno degli errori più gravi commessi dalla CIA. come conferma l'agente Milton Bearden e poi il giornalista Joseph Trento. Dopo il 1989 fu il mondo a disinteressarsi dell'Afghanistan, non la CIA. La CIA non si occupa di costruire stati, non è questo il suo compito. Fu una follia. La politica americana portò alla distruzione quasi totale dell'Afghanistan. Ancora oggi paghiamo gli effetti di quelle scelte, ma possiamo prendercela solo con noi stessi. Siamo stati noi a creare una situazione tale da permettere a un pazzo come Osama Bin Laden di fare proseliti, speculando sulla disperazione della popolazione. I russi sono ancora impegnati in una folle corsa al riarmo, ma 10 anni di guerra in Afghanistan riducono l'economia sovietica allo stremo. Durante gli 8 anni della presidenza Reagan, Robert Gates fornisce alla Casa Bianca un'analisi errata della reale potenza russa. L'amministrazione non ha così alcun elemento per rendersi conto che l'impero del male sta per crollare. Il numero delle vittime cresceva di settimana in settimana e così le difficoltà di una guerra durissima. L'Afghanistan è stato per i russi quello che il Vietnam è stato per l'America. Anche l'Afghanistan ha contribuito al crollo dell'Unione Sovietica. A un certo punto i russi si resero conto che non ce l'avrebbero più fatta a sostenere lo sforzo economico di quella guerra. Non dimentichiamoci che all'epoca erano anche impegnati su altri fronti. I russi non potevano permetterselo. Era una spesa davvero enorme. Era chiaro che non ce l'avrebbero mai fatta. E invece la CIA continuava a dire che i russi avrebbero speso altri soldi per l'Afghanistan e per le armi, ma non era possibile. Cercavamo di capire quanta parte del bilancio sovietico sarebbe stata impiegata in armamenti, ma i risultati delle nostre ricerche furono imprecisi. Io stesso pensavo che le spese militari rappresentassero il 20% del loro prodotto interno lordo. In realtà, alla fine mi resi conto che erano molto più alte, almeno tra il 38 e il 40%. Secondo me la CIA cercò in ogni modo di esagerare le capacità economiche dei sovietici. Era immaginabile che la Russia non avrebbe potuto reggere ancora per molto. In un certo senso, lo sapevamo. Ma non riuscimmo a prevederlo e a capirlo come avremmo dovuto. D'altra parte, quando sai che i russi dispongono di 30.000 testate nucleari, è difficile dire «Non mi preoccupo di quello che può succedere, tanto la loro economia sta crollando». All'epoca conducevamo missioni aeree sulla Russia settentrionale. Volevamo capire fino a che punto potevamo spingerci. Per questo l'Unione Sovietica aumentava le spese militari, spendendo molto per nuove tecnologie missilistiche. Ma questa è una pessima politica, come giocare ai cowboy. Non avremmo mai dovuto agire così. 11 ottobre 1986, il nuovo capo del Cremlino, Mikhail Gorbaciov, incontra Ronald Reagan. L'Unione Sovietica è sull'orlo del collasso. Il Washington Post descrive Robert Gates, il capo della CIA, come qualcuno con cui si farebbe volentieri a meno di trascorrere il weekend. Ascoltiamolo. Non riesco ancora a capire perché il Post scrisse quelle cose su di me. Dissero che ero come I.O., l'asinello di Winnie the Pooh, uno che riesce a trovare sempre il lato negativo, un menagramo. E tutto questo solo perché io ero pessimista riguardo all'Unione Sovietica. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Il crollo dell'Unione Sovietica è un altro momento in cui le informazioni fornite dagli agenti sono di difficile interpretazione, a volte incomprese o sottovalutate. Ascoltiamo gli stessi agenti della CIA come ricordano quel momento storico. Personalmente ero molto scettico verso Gorbaciov. Ricordo di aver consigliato al presidente Reagan di fare molta attenzione. Gli dissi: signor presidente, Gorbaciov è l'ultimo comunista. Non vuole affatto smantellare il comunismo, quanto piuttosto rimetterlo in sesto. Gorbaciov stava smantellando la nomenclatura stalinista. Il problema è che non sapeva come rimpiazzarla e i fatti mi hanno dato ragione. La glasnost e la perestroika innescarono un meccanismo difficile da controllare. Non credo che Gorbaciov immaginasse il crollo di tutto il sistema. In realtà lui voleva tenerlo in piedi. Ero certo che Gorbaciov fosse in buona fede. La mia preoccupazione, già dal 1985-86, dopo la sua ascesa al Cremlino, derivava dal fatto che stavamo sottovalutando la portata dei cambiamenti che egli avrebbe attuato. Un anno più tardi, nel 1987, Reagan lancia la sua sfida a Gorbaciov. Signor Gorbaciov, tiri giù quel muro. Quando Ronald Reagan pronunciò quelle parole, tiri giù quel muro, l'effetto fu enorme. Nessuno se l'aspettava. Tra me e me però pensai, bella retorica, tanto non succederà mai. Erano tutti molto scettici. Nessuno ebbe il coraggio di crederci. In ultima analisi, fu un altro fallimento della nostra intelligence. Nell'Unione Sovietica ci fu una vera rivoluzione politica e noi non fummo in grado di prevederla. Se c'è ancora qualcuno che pensa che Ronald Reagan abbia vinto la guerra fredda, beh, non ha proprio capito nulla. Non fu Ronald Reagan né il nostro sistema di difesa a vincere la guerra fredda. A perdere furono le contraddizioni interne al sistema politico marxista-leninista che condussero l'Unione Sovietica al collasso. 21 dicembre 1991. L'Unione Sovietica si dissolve. Alla Casa Bianca c'è George Bush, il nuovo presidente formatosi politicamente negli anni della Guerra Fredda e direttore della CIA dal 76 al 77. Bush non riesce a credere che l'impero sovietico si stia realmente sfaldando. Ce ne parla l'allora direttore della CIA, Robert Gates. Consegnai al presidente Bush un memorandum. Si basava sulle informazioni di quando ero vice consigliere per la sicurezza nazionale, nel giugno 1989. Secondo i documenti della CIA, esistevano forti possibilità che Gorbaciov nel giro di uno o due anni cadesse. Per questo gli Stati Uniti dovevano prepararsi non solo alla sua scomparsa di scena, ma anche al probabile crollo dell'Unione Sovietica. Non era possibile predire con certezza la data esatta, anche perché, ripeto, i servizi segreti non sono formati da indovini. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere una cosa del genere. Il primo ad esserne sorpreso non fu io, che ero un dirigente della CIA incaricato per la Germania dell'Est, ma lo stesso Erich Honecker, oppure Hans Mielke, il capo della Stasi, che scapparono a gambe levate dalla Germania orientale. Insomma, le previsioni di caduta dell'impero sovietico sono vaghe. Così commentano l'ex agente Peter Hirst e poi Oleg Kalyugin, ex agente del KGB. Neppure lo stesso KGB, che sapeva nel dettaglio tutto quanto avveniva in Russia, era riuscito a prevedere il crollo dell'Unione Sovietica. Il KGB. È vero, la CIA non riuscì a prevedere la caduta dell'Unione Sovietica. Io ero un ufficiale del KGB, mi occupavo della sicurezza del mio paese e io stesso non riuscii a prevederla. Nessuno da noi credeva che eravamo vicini alla fine. Era una situazione surreale, specie per persone come me, cresciute negli anni della Guerra Fredda. Per noi era difficile immaginare che in quella terra potessero avvenire dei cambiamenti. Pensavamo che avremmo convissuto con la guerra fredda per tutto il resto della nostra vita. Perciò potete immaginare quale fu la mia reazione nel novembre 1989 quando nel mio ufficio di Langley accesi la televisione e vidi cadere il muro di Berlino. Quando nel 1991 l'Unione Sovietica fu ufficialmente dichiarata un'esperienza conclusa. 9 novembre 1989, la caduta del muro di Berlino. La Germania inizia il processo di riunificazione. Uno dopo l'altro, intanto, i paesi satellite dell'Unione Sovietica si liberano dei regimi comunisti. fine della guerra fredda. Fu come alla fine della seconda guerra mondiale. Erano tutti stanchi di guerre, di tensioni. Ci fu come un senso di, non direi demoralizzazione, forse è una parola troppo grossa, piuttosto di mancanza di forze, di voglia di combattere. In fondo non c'era più il nemico. Il grande esperimento sovietico, dopo quasi 75 anni, è finito. Sembrò come se il mondo si fosse fermato. Alla fine fummo noi occidentali a vincere la guerra fredda. Cominciammo a pensare che il problema era risolto. La questione era chiusa. Ecco perché iniziarono i tagli alle spese per la difesa. Cominciarono a smantellare la nostra intelligence. La gente ormai pensava, ora a che serve? Dicevano, è finita, non c'è più bisogno della CIA. La caduta dell'Unione Sovietica aveva prodotto un netto cambiamento delle priorità e la prima a risentirne fu proprio la CIA. Non si può schioccare le dita e dire, ok, è finita, ora smantelliamo tutto. Non succede mai così. Molti rimasero delusi dal crollo dell'Unione Sovietica. Non c'erano più nemici e bisognava subito crearne altri. La fine della guerra fredda ci costrinse a cambiare un mucchio di cose. Dovemmo ricominciare a guardarci intorno e a capire cosa stava succedendo. La storia è finita, cala il sipario. C'era una volta un mondo in cui l'Unione Sovietica stava da una parte e l'America dall'altra, come in una partita di scacchi. Alla fine vince chi ha più pezzi dalla sua parte. E nel 1991 i pezzi a disposizione dei russi erano scomparsi. Con la storia della CIA riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Guido Olimpio, quali sono i servizi più forti oggi? Ma certamente diciamo, non ce n'è uno in assoluto, bisogna fare una serie di considerazioni. A livello globale non c'è dubbio che la CIA è l'unica perché ha una possibilità non solo di presenza umana e di capillarità, ma anche appunto, come dicevo prima, la combinazione con la tecnologia gli permette di arrivare in luoghi inaccessibili ad altri servizi segreti. E molto efficaci sono i servizi segreti inglesi, anche quelli francesi molto determinati, lo sappiamo tutti, il Mossad, anche se il Mossad ha un ambito più limitato. Il vantaggio del Mossad è che è una piccola organizzazione, ma che deve concentrarsi su un'area ristretta e quindi questo gli permette di usare le sue risorse su alcuni fronti e non su un piano globale come sono gli Stati Uniti. Ovviamente i russi, che hanno una grande tradizione, e suggerirei anche, se così dire, i servizi vaticani, ossia il Vaticano ha una sua rete, non dico di intelligence, ma di informazioni, ha una rete di persone che hanno sono presenti anche in aree a volte poco accessibili, aree remote, e che permettono al Vaticano di avere buone informazioni. Viene poco raccontato, ma secondo me insomma è un dato da sottolineare. Che è presente. Non è un servizio segreto, ma un servizio di informazione che più o meno la stessa cosa. Valido. Si possono sapere i numeri di oggi della CIA o sono top secret? Cioè quanti agenti lavorano e di quanto è il budget? Allora, sono ovviamente segreti, ma sappiamo che le cifre che circolano dicono attorno ai 15 miliardi di dollari, nell'ambito però di un budget ben più ampio che coinvolge tutte le altre agenzie, e qui si parla di una cifra che oscilla tra i 53 miliardi di dollari ai 60 miliardi di dollari, forse anche più. Invece la CIA dicevi solo 15 miliardi. E invece di quanti agenti parliamo? Gli agenti, di nuovo, come dicevo prima, si tratta di numeri sempre riservati, ma le cifre oscillano tra i 20.000 e i 22.000 agenti nel loro complesso, tra quelli che sono basati alla sede dell'agenzia Langley in Virginia, più quelli ovviamente dislocati sul campo. Però io credo che magari ci sono anche altri numeri che non possiamo considerare, non sappiamo, che sono tutti quegli informatori che di fatto non sono parte ufficiale della CIA, ma comunque contribuiscono al lavoro della CIA, quindi è un numero sicuramente molto molto più ampio. E rispetto a uno stipendio medio di un agente? Allora, Certo, gli stipendi negli Stati Uniti ci sono dei parametri, no? Più o meno fissi per i dipendenti delle agenzie. Si va tra i $50,000 agli $80,000 come picco massimo. C'è però un aspetto che forse vale la pena sottolineare. Rispetto all'Europa, rispetto all'Occidente europeo, l'intelligence americana dà la possibilità ai suoi di uscire, magari andare in pensione e poi collaborare ancora. Quindi abbiamo figure, questo è successo soprattutto negli ultimi 6-7 anni, alti funzionari che hanno lasciato la CIA, si sono messi in proprio, hanno aperto agenzie di sicurezza e hanno venduto servizi all'intelligence. L'outsourcing che negli Stati Uniti è molto ampio e dà la possibilità di guadagnare probabilmente 10 volte tanto a un alto funzionario. Perché? Perché è un privato e quindi questo sistema è chiamato alle porte girevoli, no? Ed è basato su un elemento però fondamentale: avere la clearance, ossia avere l'autorizzazione a maneggiare, vedere, trattare segreti. E la clearance l'hanno attualmente negli Stati Uniti circa 800-900 mila persone. E la clearance è la golden card, senza la clearance tu non vai da nessuna parte. Poi si può discutere chi è che dà la clearance. Allora, ci sono vari livelli, c'è chi dà la clearance, è una società, ci sono delle società che a loro volta analizzano, no? Fanno lo screening di una persona. Ovviamente a certi livelli è un'analisi più ampia e più profonda, a livelli più bassi magari non è così profonda e quindi la clearance ce l'ha qualcuno che non è proprio perfetto. Insomma, è un sistema un po' delicato, ecco, che si discute molto di questo, sull'outsourcing, però. Però questa è una delle evoluzioni alla fine di questi tempi. Sì, una delle evoluzioni. Con la guerra al terrore l'outsourcing è cresciuto tantissimo, in maniera esponenziale. E quindi tu ricordi, no, i famosi casi delle guardie private, dei contractors, no? Le guardie private a Baghdad, sì. Anche quella è una forma di outsourcing, non c'entra con l'intelligence, però ci sono casi che la CIA ha bisogno di uno studio, a volte fa lo studio sull'interno, se no si rivolge a magari un'agenzia esterna guidata da un ex che produce il rapporto. Allora, insomma, io qui non ci vedo niente di strano, non c'è niente di male, a patto che esista una catena di controllo vera ed efficace. Cioè, sì. Se tu mi produci un rapporto che non va bene, io devo interrompere il contratto con te, io devo poter avere, devo avere dei sistemi per verificare questo, e se no succede che tu fornisci informazioni non fondate o comunque magari parziali, non precise. Ecco, infatti la polemica è anche sul sistema di controllo, che a volte c'è e a volte no. Grazie. Grazie a voi.